Radio Popolare presenta La Caccia, caccia l'ideologico quotidiano a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buonasera, l'indice prevede di parlare di La Palisse, di acqua minerale, del nuovo galateo per le pubbliche manifestazioni, di volti infantili e, se il tempo ce lo concede, di arcieri in mutande.